E benvenuti a questa nuova puntata dell'Onda in Onda, sempre dagli studi di Radio Centrale. Siete sui 97.5 e qui siamo a Termini Imerese. Allora, eccolo qui. Eccolo là. Ecco, questo era appunto il nostro regista Totò Scante. Buonasera, buonasera. Ma c'è anche Peano. C'è anche Peano del buon programma Feedback. Ciao a tutti. Che oggi ci fa compagnia in attesa che arrivi l'altro co-conduttore di questo l'altro programma. L'altro co-debosciato. Esatto, di questo programma inutile, che è appunto Antonio, che manca perché è in ritardo. Ma è inutile Antonio o la trasmissione? È inutile entrambi. Ah, ecco. E infatti questa cosa si somma, questa trasmissione non ha scopo. È bello perché mi invitate, giustamente, no, se non fai un cazzo a nessuno, però. Esatto. Complimenti. Esatto, esatto. Ma dobbiamo dire appunto che Antonio è in ritardo quanto un armadillo di Star Wars. Non so cosa significa, ma l'ho sognato da dire per tutto il pomeriggio. Cos'è questo sottofondo camorruso? Non mi rompere. Toto è un uomo che ha le sue esigenze. Esatto, lui mette sotto. Toto scavalca il privato di Toto. Hai ragione. Allora, intanto partiamo con delle novità. Partiamo con delle novità perché da oggi. Scusate, l'Onda in Onda. Goi, eh? Esatto. Perché mi piace molto. Mascalzone. L'Onda in Onda inizia il podcasting. Cos'è il podcasting? Ovvero noi registriamo. Cioè, non solo, veramente. Spiega cos'è il podcasting, allora, e poi dopo faccio. Che figo. Che cosa fai dopo? Poi te lo dico. Noi registriamo le puntate radio di questa, la nostra trasmissione, la mettiamo in streaming on demand sul nostro profilo di Facebook, che è www.facebook.com/ondainonda. Quindi se non vi basta già sentirla una volta in diretta, dico, la sentite pure registrata, che la voglio prendete dire. In streaming. Esatto, in streaming on demand pure, quindi ci sia qualcuno che la demanda questa cosa. Esatto, la demanderanno in molti, perché insomma nel nostro, come sai, è un programma seguitissimo dai giovani. Ma in attesa insomma di questa, da tutti, ma da quali giovani? Da tantissimi, dai giovani. Viva i giovani per i giovani. E invece diamo l'altra notizia insomma interessante, dopo possiamo dirla in anteprima ormai, insomma siamo pronti per è quasi ufficiale, diciamo che è ufficiale, che è dal 5 luglio partiremo con la stagione estiva On the Beach. Di Radio Centrale, che sarà appunto vedrà come suffisso On the Beach tutti i programmi nostri che faremo, che è appunto, no, lascialo così, lo annunciamo mentre parliamo, bravissimo. Trasmetteremo dal Sunset a Termini Bassa, sì. Partiremo appunto dal 5 luglio, quindi mi raccomando, veniteci a trovare e rimarrete sintonizzati su Radio Centrale. Ci ascoltiamo intanto Rocking All Over the World. Ma di chi è? Dei Creedence Clearwater Revival. No, è di John Fogerty, che è il chitarrista di Creedence Clearwater Revival. Like it. Eccoci! Questi erano appunto i Creedence Clearwater Revival con Rockin' All Over the World, pezzo che tra l'altro è stato rifatto da un sacco di cantanti. Lotto, lo sapevi? Non te ne frega sì, niente. Certamente. Sì, certamente, guarda, questo pezzo proprio io la sera, tutte le sere. Dai, dai, perché vuoi dirmi che... Ma anche la mattina, cosa ne pensa feedback di questo pezzo? Dai, avanti. Io adoro i Creedence Clearwater Revival. Ma sei stato al telefono fino ad ora! Ma non è vero. Allora, senti, John Fogerty... Che neanche lo conosceva. Comunque, senti, John Fogerty, cambiamo leggermente argomento. C'è un sondaggio leggermente. C'è un sondaggio fatto da un gruppo francese, da un istituto francese. Non serve un cavolo, cioè i francesi non capisco niente. E invece no, questa cosa ti piacerà, perché i francesi dichiarano che il sesso non è una cosa sporca e adorano il ménage à trois. E c'erano i francesi, per dirci. No, perché ti spiego perché. Perché appunto questo sondaggio di IFLOP, che non è, insomma, cos'è? Si chiama IFLOP l'agenzia che l'ha fatta. IFLOP. Sì, è come, cioè, tanto per dire quanto ci basiamo sulla credibilità di un flop. Sì, un'agenzia che si chiama IFLOP, che non è una nuova applicazione dell'Apple, è proprio un'agenzia che fa sondaggi. IFOT. No, Peppe, non è l'IFOT. No, IFOT. A quanto pare invece starà uscendo la ifriggitrice. Ovvero... Scusa, ma quel bravo ragazzo del tuo collega, quell'essere immondo di Antonio, dove è? Non lo sappiamo, ma non ce ne può fregare di meno. Perché ci abbiamo i flop, esatto. Che ce l'hai. Comunque, questo sondaggio ha rivelato che, diciamo, per i galletti, ovvero gli uomini, il perfetto modo di copulare sarebbe quello appunto del ménage à trois, secondo il 64% degli intervistati, contro invece il 31% delle donne. E quindi la metà degli uomini e un quarto delle donne non avrebbe nulla in contrario al ménage à trois, perché dice in realtà il sesso di coppia è un po' palloso, quindi è bello farlo con più persone. È giusto, è giusto. Mentre invece, io, tu e tua sorella, siamo in una democrazia. Quindi. Mentre invece sono molto scettici sullo scambio di coppie, che Presidente del Consiglio è uno dei massimi esponenti. Lui ha contribuito tra l'altro a questa indagine di mercato sui flop. Attenzione, pronto? Abbiamo una telefonata, qualcuno vuole dire la sua su questo argomento. Pronto? Pronto? Sì. Ma Alfio, dove va a dire mia? Oh, Alfio, signor Alfio. Signor Alfio. Aveva trovato il nostro conduttore di Canta il Gallo in quel di Ragusa? Sì, esatto, e qua c'è sempre quel conduttore di Canta il Gallo che appena sentito queste cose dei menate a tri quando si è deciso un gioco che vuole fare sesso pure con le canne. Menate a tre. Era un menage a trois. Ah, ho capito, una menata, va bene, altra cosa ho capito. Comunque. Vabbè, signor Alfio. Ci sono i satelliti che mi informano che l'altro conduttore sta andando alla radio. L'altro conduttore quale? L'altro conduttore, come si chiama? Quello cretino. Ecco, bravo, sì, Antonio Panzica. Sì, sì, sì. Esatto, mi piace quando non andate leggere d'acqua, il nome forte, va bene, signor Alfio, ma lasciarci no, niente, signor Alfio è così, lui chiama è definitivo, sì, esatto. Chiama, dice le sue, chiude senza lasciare speranze a noi che entriamo. Ti è piaciuta questa, vero? Io ti entrerei con piacere e non ti dico dove. Attenzione, queste dichiarazioni forti date su Radio Centrale. Ma perché? Perché domani, attenzione, che cosa c'è a Palermo? Lo sappiamo tutti. Certo, c'è il Gay Pride numerosi. Che oltretutto è iniziato questa settimana, cioè esatto, tutta la settimana. Ma domani si conclude appunto con la sfilata. E insomma, ci saranno vari dibattiti e esposizioni anche alla Piazza Maggiore, se non sbaglio. No, assolutamente, anche alle performance comunque all'interno del corteo, ovviamente. Sì, e io ne so qualcosa perché domani mi vedrete lì. Se vorrete farvi quattro risate. Da drag queen? No, da drag queen no, ma in body paint sì. Quindi vi do questa news. Allora, grazie, arrivederci, lo buona serata. Tanto tempo, tutto di seguito, aspettare tranne che si mostrasse le chiappe. No, non mostro le chiappe, è un sì, body le paint, le chiappe, non solo mostri le chiappe, ma neanche il coraggio di mostrarle le natiche, natiche. Tutta la loro naturalezza, ma te le dipingi pure. Va bene, comunque, vergogna. Appunto Palermo è anche perché nature sarebbe stato troppo. Giustamente c'è chi ci mette la faccia, c'è chi ci ci mette l'altra faccia. Esatto. Quindi allora domani ci saranno che corrispondono poi d'altronde, corrispondono, sì, le due facce. Dobbiamo continuare a parlare della mia delle mie facce o ascoltiamo cosa ci sarà domani al Gay Pride? Allora, domani ci saranno appunto seminari, dibattiti, letture, workshop, concerti e feste. Molti sono gli artisti che stanno contribuendo a rendere un successo la manifestazione, tra i quali Emma Dante, Alessandro Reis, Giovanna Fiume, Stefania Petix, Giuseppe Giambrone, Nino Gennaro, Vladimir Lussuri e tanti altri. L'evento organizzato da Arcigay Palermo non sarà una manifestazione limitata alla città, ma avrà carattere regionale. Grande è l'entusiasmo tra i giovani siciliani che si apprestano a partecipare in massa al Gay Pride, ma non sono comunque mancate le polemiche. Alcuni movimenti hanno attaccato la kermesse ancora prima dello svolgimento, criticandola aspramente in quanto sfocerebbe, a loro parere, in un volgare esibizionismo sessuale. Che bello, è giusto, sì, è fondamentalmente la lotta per i diritti civili. Esatto. Viene tacciata di esibità, siamo tutti con le chiappe di fuori e ci incuriamo. No! Ecco, infatti non sarà così. C'è Trenino? No, non c'è Trenino. E allora non ci vengo. E infatti forse non tutti sanno che 30 anni fa, in relazione al mondo omosessuale, tutto cominciava proprio dallo splendido capoluogo siciliano. L'Arcigay nacque infatti dopo la morte di due ragazzi uccisi perché colpevoli di essere omosessuali. Quindi il Gay Pride di domani sarà ancora più importante del solito, appunto perché si celebrano i 30 anni alla nascita dell'Arcigay. Quindi Totò, intanto noi che aspettiamo il farabutto ci ascoltiamo un pezzo e ci ascoltiamo in questo caso La fame di Camilla con Buio e Luce. Hua! Sono qui in cerca di un'anima con cui dividere tutto quello che ho. Sono qui per trovare un riflesso che ti assomigli un po', perché mi sento solo. Cerco pace nel cuore, ma so soltanto come evitare l'amore. Sognerò cieli sereni, mentre il vento soffia su di me. Fingerò di non pensarti, mentre satelliti, abbiamo bisogno di gravitare vicini. Guardami perché siamo uguali, lo sai che buio e luce sono figli del sole. Ed eccoci rientrati, è arrivato finalmente Antonio. Ma ciao, sì, benvenuto. Eccomi qua, buonasera. Ma si parlava di Gay Pride. Sì, no, ma poi è stato bello perché io ho acceso la radio e la prima parola che ho sentito è stata scopata. Cioè, è stata una cosa, un impatto piacevole con... Ci fa piacere che tu sentirne parlare già piace. Insomma, ci fa piacere che tu sentirne parlare piace. Anche è poco un virtuosismo. Fa, Andrea Leggendo ci ha regalato altre grandi emozioni. Allora, io volevo farvi ascoltare dalla viva voce dell'organizzazione del Gay Pride. Sì, di Luigi Carollo, che esatto. È uno della... Che fa dolci della, anche. Della... Dolce Carollo... Scusate, non fanno i dolci Carollo, o sbaglio? Ma dai, smetti. Non allora, è lo stesso? Non no, è lo stesso. È Luigi Carollo della CGI che vi facciamo ascoltare cosa ha dichiarato proprio qui a Termini. Insomma. Sì, è venuto qui a Termini parlando di precari del lavoro, precari del diritto, e quindi ci ha parlato anche del Gay Pride. Ascoltiamo. Forse, sì, eccolo qua. Con Luigi Carollo dell'Associazione Articolo 3 di Palermo. Abbiamo parlato con gli altri ospiti di diritto al lavoro che manca, che viene calpestato, che comunque non viene garantito. Ma c'è anche un diritto, i diritti in generale vengono anch'essi calpestati e forse lì la scala dei valori è molto più grande. Da questo punto di vista una giornata come quella di oggi a cosa può servire? Ma gli obiettivi che noi speriamo di raggiungere sono in realtà due. Intanto, come tu giustamente hai detto, far comprendere che esistono due forme di precariato e di precarietà. Una è quella delle persone che rischiano di perdere il lavoro, poi esiste il precariato nei diritti quando questi sono negati, come per esempio i diritti delle persone omosessuali, lesbiche e trans, che poi rendono precaria tutta la vita. Perché tu non puoi vedere riconosciute le tue famiglie, le tue relazioni. L'altro obiettivo che volevamo raggiungere con una giornata come oggi è quella di portare avanti il principio che si può combattere assieme la battaglia contro il precariato e la precarietà. Quindi siccome a Palermo il 19 giugno si svolgerà il Pride LGBT siciliano, quello regionale, per noi sarebbe motivo di grandissimo orgoglio vedere gli uomini, le donne, i lavoratori e le lavoratrici di Termini Imerese sfilare insieme a noi, non per una questione di numero, ma perché crediamo che sarebbe bello per il nostro Pride vedere proprio le bandiere, le insegne degli operai e delle operaie, dei lavoratori e delle lavoratrici di Termini, perché sarebbe come un segno che si è capito che le battaglie per i diritti appartengono a tutti e che non ha senso farle separatamente. C'è una polemica, qui ho il responsabile dell'associazione Articolo 3, quindi chi meglio di lei, di te, mi può rispondere a questa domanda. C'è questa critica verso l'ostentazione dell'essere gay. Perché questo avviene nonostante le critiche? Perché credo che la migliore risposta possa venire dall'immaginare il mondo al contrario, cioè è come se si dicesse agli eterosessuali che ostentano la loro eterosessualità. In realtà non c'è ostentazione, quello che si chiede è il diritto di poter vivere la vita esattamente come fanno gli altri. Per esempio, capita di vedere delle polemiche rispetto a coppie di uomini o di donne che si baciano in un locale o si baciano per strada. In quei casi viene vista soltanto l'ostentazione. Nessuno pensa che un ragazzo e una ragazza che si bacino per strada stiano ostentando. Cioè, la verità è che due persone, quando si amano, se ne fregano dell'esistenza degli altri e si baciano, si tengono la mano perché si amano, non perché lo vogliono sbattere in faccia. La stessa cosa vale per il Pride. Il Pride è innanzitutto una festa. Io trovo molto triste che questa festa venga raccontata come un'ostentazione di corpi nudi o di persone con le paillette, con le piume, perché sì, c'è anche questo, però innanzitutto c'è la gioia. Io non so quante altre comunità esistano al mondo che facciano la più grande battaglia per i propri diritti in maniera pacifica, festosa e allegra. Non ci sono manganelli, non ci sono armi, non ci sono scontri con le forze dell'ordine. C'è l'orgoglio dei propri corpi, della propria visibilità, dei propri visi, e magari questo viene anche portato avanti anche con l'allegria nell'abbigliamento, nel colore, perché è l'unico caso in cui si protesta facendo una festa e non portando guerriglia nelle strade o portando scompiglio. C'è una... Bene, insomma, sentiamo, qui no, si ma conclude poi io l'intervista. Sentivo la tua voce, dico, non voglio fare battute di bassa lega, però si sentiva la tua voce che si andava innamorando. Io l'argomento è molto delicato. Sì, ma tu l'hai sentito. Ho cercato di trattare farlo nella maniera più professionale possibile. Esatto, no, ci sei riuscito, però ti stavi innamorando, ho sentito un certo coinvolgimento. Quello che tu credi innamoramento era un modo per cercare di entrare penetrare l'argomento in maniera... Ecco, ci siamo ridotti ai soliti discorsi da bar. Cioè, ma perché? Cosa avete capito? Un co-conduttore che andrà a sfilare body paintato, no? Sul palco del Gay Pride. Occhio a Giuseppe Giambrone che secondo me ti metterà body l'occhio di sopra. Paintato. Puntato fin nelle chiappe. Lui, diciamo. Questi neologismi. Questi pazzichi. Nuovi neologismi. Esatto. Ma voi lo sapete che ho scoperto l'altra volta, forse non me ne fregherà niente, che dire bella calligrafia è uno degli errori più incredibili, certo, del mondo. Perché già callios vuol dire bella. Bello. Quindi bella grafia dice una bella bella grafia. Ma a noi che cosa ce ne frega? Compa, zitto che non lo sapevi e mi stai ringraziando. La megliografia. Va bene, insomma, allora intanto ricordiamo a tutti quanti che possono interagire con noi attraverso il sito www.facebook.com/ondainonda, oppure possono intervenire telefonicamente al numero 091-888-5533 per intervenire in diretta. Ridiamo la notizia che poco fa il Antonio non c'era. Vediamo la notizia. Ah, vediamo la notizia 5... appunto che dal 5 luglio trasmetteremo. E vabbè, fai finta che non ci hai sentito. Veramente, dai, fai sorpresa. Ma che di? Sì. Aspetta, no, non ho capito. Cosa succede dal 5 luglio? Dal 5 luglio trasmetteremo dal Sunset a Termini Bassa. Smettila che non ci ha sentito per davvero. No, io vi ho sentito dal 5 luglio, noi trasmetteremo dal via Lungomolo a Lungomare Cristoforo Colombo di Termini Merese dal Sunset. Esatto, esatto. Tutta l'estate faremo Radio Centrale on the beach. Faremo due palle così, però dalla spiaggia. Quindi, esatto, arriverà il nostro calore umidiccio. Va bene, insomma, parlando di Gay Pride, ci ascoltiamo una bellissima canzone degli ARC che è appunto Let's Your Body Decide. Sembra quello di Zelig, no? Ma cominciava così sta canzone. Ma veramente io non lo sapevo, compagno. Siamo tornati in onda dopo aver ascoltato uno dei pezzi più omosessuali nella storia. Però adesso basta questo greve scherzo, così, mentre stiamo parlando invece di un evento importante, perché il Sicilia Pride è un evento importante. Andrea, pensate che se n'è andato 3 minuti per andare a controllare se aveva tutti i colori per domani, per potersi pittare, come mi suggerisce il buon Peano. E adesso Andrea vedo che sorride, perché perché ci sono arrivati dei saluti, dobbiamo fare. Intanto ci ascolta la nostra Marta alla Sardegna. Luana che ci ascolta. Ah, Marta casa... dell'altra volta. Ci ascolta. Ma si trova in un uracche? Non lo so. E c'è Luana che chiede: ma che canzone è? Esatto, e la canzone lo chiede in sardo, perché ovviamente sì, la canzone è... giusto, lei non è sarda. La canzone è Dede Arco, compa, si siamo chiama Let Your Body Decide. Lascia che il tuo corpo decida per te. Esatto. Where you want to go, cioè dove vuoi andare. Passo slow, I would like lo faccio piano. Esatto. I would like to go to Walker Texas Ranger University. Esatto, Walker Texas Ranger University. Yeah. Cos'è la Walker University? Parlane, Antonio. Allora, la Walker University è un'università del Nevada. È una ciofè, cioè... Un'università. No, allora, tutto quello che verrà detto da questo momento in poi può essere usato contro di te in tribunale. Esatto, quindi io dirò solo quello che so. So okay. Che è un'università molto seria, valida, che si trova nel Nevada. Non io non l'ho mai sentita dire. Totò, non l'hai mai sentita dire, ma in realtà se ne è occupato Panorama, il Corriere della Sera e niente dopo di meno che l'Unione Nazionale Consumatori. Mamma, io sto staccando il mio microfono, arrivo. Definendola una società che vende lauree fasulle. Qualcosa ci ha riportato nei meandri di quel di Termini, perché pare che uno dei consiglieri comunali di questa amministrazione sia stato insignito di una particolare laurea di questa università. E noi, insomma, la laurea in calci rotanti. No, c'è qualche disturbo sulla linea. Esatto. E noi, insomma, vogliamo congratularci con questo consigliere per la devozione, insomma, nello studio. Ho saputo la Walker University. Sì. Allora, Antonio, di qualcosa. Walker. Antonio oggi è stato contattato da questa università per consegnare una laurea anche a noi di Radio Centrale. Quindi colleghiamoci appunto con Antonio, che ci parlerà di questa. Antonio, how are you? Do you hear my voice? Yeah. I'm leaking from Nevada. Yeah, c'è una neve casa squaglia. Yeah. Nevada, bro. Nevada. How are you, Antonio? Yeah, tutto good. It's good. Vado bene, tutto bene. Chi ci fai, dogo? Why? Che cos'è? You try to speak in English and in Sicilian, non ci riesci, solo che ci fai, dogo. It's very triste, sad. It's very sad. What are you doing? Antonio, I want to say you that I am studying medicine, but I like it. Cioè, io studio medicina, però mi piace che amici intorno a me, around me, possono conquistare, can conquer a laurea, a graduation. And so congratulations, I give you a graduation for you, Peano e Toto Scaggia. Honoris causa, ovviamente. Anche sympathy causa. Obviously. Sympathy causa. 5,000 euro. Euro. No. 5,000 times. Mi sembrava 5.000 euro. No, è perché si che insomma siano... I know that is my last day in this radio. Oh, an SMS, maybe Guardia di Finanza. I'm watching one moment. No. Luana che sta morendo. Allora mandiamo un dottore laureato in medicina. I'm a doctor. In Italy, possibly. Ma Luana ha scritto sto morendo e non stiamo morendo, ed è strano. Sì, è perché le sue amiche non sono insieme a lei. Vorremmo sapere, professore, ma in questa università c'è anche, come si chiama? Va bene, te lo dico dopo. When you will learn Chuck Norris, volevo dire, c'è anche Chuck Norris, perché è la Walker University. Quindi. Walker Texas Ranger University. Ma sanno not to change, sempre cretino. C'è anche il signor Johnny Walker, docente. Yeah. Johnny Walker, Chuck Norris, è prestigiosissima questa università, non lo sapevo. I have to go, because... C'è poi Chuck Tosol. Dopo Chuck Norris c'è Chuck Tosol. Scusate. Allora io. Attenzione, fermi. Zitti tutti, attenzione. Allora, presidente, noi chiediamo umilmente scusa. Non è partito l'inno nazionale e lui si è prostrato per farlo. Per farlo. Si è prodigato. Torno mo. Ecco. Mano sul petto, sentiamo, sentiamo anche Dodò che se lo riproduce a cappella. Ma Dodò è diventato così cretino dopo che è stato a Napoli, poi è proprio una cosa così. Quel militare non si è più ripreso. Ma dopo quella foto in cui c'ha un occhio a Salerno, non so, invito tutti ad andare a vederla su internet. C'ha un occhio a Salerno. Cioè, c'era un occhio a Salerno che scriveva la canzone di Lucio Dalla, qui dove il mare luccica, e l'altro si trovava in America, in Nevada, a prendere la... la laurea. Ma lì lo tra l'altro come... il suo primo cognome era Caruso, per questo ha scritto quella canzone. Ah, perché era piccolo? Sì, esatto. Era giovane Caruso, anche Caruso. O tenore, esatto. O tenore. E da lì il famoso Dall'America Caruso. Dall'America Caruso, no, Dall'America Caruso, è tutta una parola. No, yeah. Non ci sta Dall'America Caruso. Presidente, Brano, lei Presidente. Comunque vogliamo segnalare un attimo all'amministrazione, all'amministrazione qui della scuola che c'è vicino alla radio, che ci sarà una fognatura rotta perché c'è un odore, c'è un certo flavor che si è mischiato ora anche a un diciamo a un sabor de carne arrostita. Ma c'è la carne arrostita che riesce a coprire la puzza. Preghiamo chi ci sta ascoltando di continuare a arrostire la carne. Continuate a arrostire. Sarà il signor Alfio che è arrivato qui a... Per ogni tanto predomino l'altro due. Sì, e mi cadono i peli del nostro. Presidente, ma perché è venuto in radio? No, niente, mi stavo levando i dopo sci perché torno dal Nevada. Non so se hai capito la battuta. Allora, la prossima volta il cretino ride così, chiamo bersagliere presidente o bersagliere, no, bersagliere l'ha detto una volta. Mi sono confuso, c'è Massaro che fa sballare tutto il mondo. E niente, torno dal Nevada e torno sul Vesuvio perché ci stava troppo freddo là. Però mia moglie Clio ha preso una bella laurea in ingegneria meccanica, anche lei onorifica la Walker, e se non ce l'ha una Clio la laurea in ingegneria meccanica in styling della Renault in restyling. Vabbè, io saluto che mi aspettano i bersaglieri che c'è una gara di tiro con l'arco. Va bene presidente, noi la salutiamo e ci ascoltiamo un altro pezzo, ci ascoltiamo Frankie High Energy con Pugni in tasca insieme a Paolo Cortellesi. Pugni in tasca per gli ostaggi dello stage, per i naufraghi alla plage, per chi vende a domicilio maquillage, per chi tinge di beige ogni aspetto del menage, per chi le pezze al culo e se le chiama decoupage. Pugni in tasca stringono gli spicci che rimangono, dei 1000 euro che da un mese s'assottigliano. Il denaro è detto liquido per via che evapora, da corpi che il padrone idrata con un'elemosina. Pugni in tasca anche per chi non si può ammalare mai, per chi paga per far pratiche, per chi raccoglie guai, che costringono chi vuole fare un figlio a restare un figlio confinato a casa col paglio, a pagare una pensione ospitati solo a mezza, a vivere una vita che ogni giorno si deprezza, che piega chi si spezza così non fa rumore. L'ultima prudenza contro chi c'ha pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Ogni mattina alla stazione, nocche livide, la nebbia nei polmoni sfanno le nuvole che gonfiano il vagone come un dirigibile pronto ad esplodere. Pugni che zavorrano, dei voti a perdere, a prescindere il tuo blitter e poi vai via, che non si sa mai sia l'occasione per una pazzia. Polizia, c'è un uomo con i pugni alzati e a guardarlo bene in faccia sembrerebbero iniziati. Aiuto, aiuto, fate presto, prendetelo finché lo si distingue dal resto, prima che un sano gesto cancelli questo posto, eseguite nell'arresto qualunque sia il costo. Non mi riconosco più con le braccia in su che va detto qualche cosa verso un tizio in blu. Dal verbale non risultano parole o museruole, da un lato due pistole, dall'altro pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Tasca, gemelli siamesi, sospesi a nervi troppo tesi, giacciono indifesi senza mai vedersi, immersi tra il podarsi e il da farsi, nodi in fondo ai polsi come promemoria persi, diversi ma simmetrici, inutili e pesanti sopra i femori, ci intralciano rendendoci patetici, i nostri pugni ermetici, stretti per la rabbia, nascosti per paura, teste nella sabbia dentro una tessuta scura, pugni sempre sotto la cintura, sudati, seduti e sedati dalla cura dei secondi che passano l'imbuto ogni minuto, pugni di mosche in tasche di velluto. Pugni destinati a nascere in qualunque ordine, l'importante è sciogliere ogni tendine. Pugni che fioriscono in mani che si uniscono ed agiscono, che crescono e capiscono chi ancora pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. Pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare. viaggiare, per cantare, ogni tasca per comprare, per mangiare, per cantare. Siamo tornati in diretta su Radio Centrale FM Italia per un'altra puntata dell'Onda siamo in sempre Africa. Stati comunque. Siamo sempre stati comunque dire. Siamo l'onda in Africa, non ve lo vorrei far dimenticare. Non siamo l'onda in Africa, tanto scordatelo, non è vero. No, invece Totò me la metterà più tardi Waka Waka. Io ti dirò Waka. Non esiste. Sì. E noi vi insegneremo il balletto anche se non abbiamo la webcam. Vi diremo come porre le mani, le gambe. E se volete un ripasso andate da Giuseppe Riolo, il nostro amico del punto 52. Pe Waka Waka. Esatto, Pe Waka Waka. Attenzione, comunque, Antonio, tu avevi una notizia su Paolo Cortellesi, una notizia di Mina che ha dichiarato. Sì. Mina Mazzini, la cantante, la nostra cantante famosa, simbolo dell'Italia nel mondo dal punto di vista vocale della musica pop leggera, ha un'intervista rilasciata uno o due anni fa, qui nella quale le chiedevano, secondo lei, signora Mina, qual è la signora Mina è un po' brutto. Qual è la sua, tra virgolette, successrice? No? La successrice? Dimmi tu il femminile di successore, dai. Il primo che mi dice il femminile. Non c'è. Ah, e quindi è sempre il successore femminile? Sì, sì. Va sì. Bene, il suo successore femminile che lei ha detto? Quella sua degna erede. Gli hanno chiesto chi è, Giorgia, non so, Laura Pausini, quella, non lo so. Lei ha detto... Paola Cortellesi. Ah, pensavo. Paola Cortellesi, ragazzi. Allora, attenzione, il femminile di successore è succeditrice. La succeditrice. Sì. Poi se la fai diventare succesucchia, diventa la succhia. Antonio, insomma, va bene. Partiamo all'altra notizia. Senti, ma la rubrica delle ricette oggi. La rubrica delle ricette, lanciamo l'appello per chi vuole. Siamo in fascia protetta. Darci una ricetta in diretta. Non l'ho capito che voleva dire, ma è pazzo. E siamo in fascia protetta, non si dicono queste cose. Non si dice ricette, non diciamo no, ricette. Dice quello prima. Ah, lui ci ha pensato un'ora dopo. Comunque vai Andrea perché è un cretino totale. Lui sì che sa. Ma qua ce la giochiamo, guarda. Allora, chi volesse dare una ricetta qualsiasi in diretta, sì. Chiami il 091-888-5533 e verrà messo in diretta. Come? Lo 091-888-5533. Benissimo, il 22 giugno il Fatto Quotidiano diventa giornale online e nascerà appunto il fattoquotidiano.it. Con grandi anticipazioni potete già aggiungerli su Facebook andando sul sito vogliocendere.it, trovate il link alla pagina del Fatto Quotidiano su Facebook. Questi mentre... giornali comunisti. Non è comunista, anzi è totalmente svincolata da qualsiasi casta. Invitiamo Luana anzi a chiamarci, scusa sono tornato al discorso delle ricette, se ha qualche ricetta a proporci con latte. Esatto, con latte. Magari un dolce. Latte pro? Umano autoprodotto. Perché hai detto la pro? La da proporci, hai detto. Totò, mamma mia. No, ma siete veramente di compagnia. Cioè, sì. Comunque voglio dirti una cosa. Cosa? Perché il latte umano perché, autoprodotto? Perché Luana hai detto è latte umano autoprodotto? Sì, sei un maiale. Non è vero. Cioè se ci sono i genitori di Luana l'ascolto. Buonasera. Sì, lo sapranno signor che tutti gli umani fanno anche il latte. La succeditrice di Luana sarà la mucca Carolina. Però non la fanno sempre. E tu il latte da dove lo fai? Ma infatti hanno cambiato la pubblicità. È presente quella pubblicità? È quello della è quello di Luana. È quello della Lulla. Scusate, non mi piace ripetere delle cose che leggo su Facebook, ma questa merita con questo sottofondo. Sai che per ora girano molto le frasi siciliane tipiche italianizzate? Ce n'è una in particolare che è molto bella. Tu presenti. La dico a te, Totò. Dilla. Tu presenti, anzi, lei presenta delle protuberanze sovracraniche, simmetriche. E chi non le fa notare questo difetto a voce è anch'egli affetto dallo stesso problema. Detto cioè, quel nodo tu è contro di sicuro. Quel nodo. Senti, ma invece di cornuti, hai visto il nuovo video di Katy Perry che è uscito oggi in anteprima? No, ma a proposito, certo, giustamente Katy Perry. Ma non sai Katy Perry? Katy Perry ha fatto un nuovo video insieme a Snoop Dogg. Tu conoscerai Snoop Dogg, Veano, ovviamente. Snoop Doggy Dogg. Si è beccato un paio di proiettili insieme. Esatto. Chi non lo... per i più... Con il suo pellicciotto diciamo, anche a Ferragosto. Cioè, per i più profani lo riconoscerete in Starsky Hatch. Lui faceva il poppone. Sì, esatto. Il classico criminale. Esatto. Ha fatto il video insieme a Katy Perry che è un, diciamo, un po' hot perché si vede Katy Perry nuda. E voglio dire... Ed è un gran bel vedere. Allora, esatto. Noi abbiamo un collegamento importante. Stiamo chiamando Sonia, la ragazza che l'altra volta ci ha dato la ricetta del risotto con la cioccolata. Perché si trova al momento in Francia, a Lille. E si trova una cena, ecco, del Squilla. Marocco. una cena marocchina. Quindi se ti dici parolacce. E sta bruciando. Sì, c'è una cena marocchina. Una cena sociale e solidale. Buonasera e bentrovati. Ma benvenuti addirittura, noi. Sì. Eccoci qua in diretta da Lille, quindi Francia, dove per adesso ci sono l'esattezza di 9 gradi. Comunque, mi trovo ad una cena con mangiare direttamente dal Marocco. Con mangiare direttamente al Marocco. Che non so più parlare perché penso in inglese, quindi mi devo collegare in italiano, poi mi parlano in francese, quindi non so. Sì, ma noi non ti sentiamo. Magari dirlo dentro il microfono. È che probabilmente gliel'ho mischiato. Voglio dire, era un miscuglio. Ma possiamo anche chiudere la telefonata. Comunque. Allora, sparaci una ricetta al volo. Sì. Vi posso dire innanzitutto che mi hanno portato una normalissima e innocua insalata, apparentemente innocua, perché vedevo tutte queste foglioline verdi, ho detto che sarà bella leggera. Ma a un certo punto c'è in mezzo ai cetrioli, alle olive, tutte queste cose, pinoli, ma direttamente dal Marocco. E delle cosine, delle foglioline verdi, tu pensi sia menta? Una cosa del genere, e invece no, era una cosa super piccante che non ho capito, proprio ho cercato di farmi spiegare cosa fosse, ma nemmeno loro forse lo sapevano. Sonia, ascoltami. Aspetta. Un attimo, Sonia, ascoltami. Voi ve ne siete fumate. Ma esatto, cosa hai fumato? Aspetta, Sonia non ti sente, cosa... Cosa hai fumato? Ah, Andrea chiede, cosa avete fumato? Non lo so. Ci sentiamo dopo Sonia, ci sentiamo di nuovo e dopo. E poi ho mangiato una caponata di carne. Guarda, bellissimo. Aspetta, la caponata di cosa? Una caponata di cosa? Di carne. Spero proprio che stanotte quello che sta sopra di me, e non intendo una cosa bastata, intendo solamente quello che dorme sopra di me. Vabbè, sopra il mio letto a castello. Spero che insomma si possa trattenere, perché mi sa che scapperò dalla camera. Si chiama Pedro, io mi immagino di questo panzone. Va bene, Sonia, parleremo poi in disparte dei letti a castello, ne parleremo meglio, perché questo incartarti non mi ha convinto. Vogliamo salutare Sonia. Sì, salutiamo Sonia, gli dedichiamo la nuova canzone di Katy Perry. Sì, ti dedichiamo buona la nuova canzone di... e buona continuazione. Grazie, ti dedichiamo una canzone di Katy Perry, che è California Girl. Ok, buona serata. Let's take a journey. Stiamo per finire, insomma, mancano 7 minuti alla fine della trasmissione. Ah, 7 minuti, insomma, non è che sono proprio pochi. In 2 minuti abbiamo preso 8 querelle, quindi alla fine. Ma sì, ma quale 8 querelle? Dico, no. Domani quello che si prende da Ghebra. Ma non si può prendere altro che querelle. Ma non si può prendere mai sul serio una trasmissione di cazzoni. Cioè, veramente, invece un attimo di serietà io lo vorrei, perché voglio lanciare un appello che è già una settimana, ovvero quello di Salviamo Altro Quando. Altro Quando è una delle fumetterie storiche di Palermo, in Corso Vittorio. Che purtroppo, una delle, scusa? Delle fumetterie storiche, okay, sì. Forse la più fornita di Palermo, che sta vivendo un periodo di crisi. Infatti c'è stata l'asta con tantissime tavole originali da un sacco di disegnatori italiani per appunto salvare Altro Quando. E quindi invito, se non sbaglio, anche Milo Manara ha venduto. Ha fatto Milo Manara, ha fatto Stenio, ha fatto anche Ortolani di il buon Ortolani di Ratman. Sì, sì, hanno messo a disposizione le tavole originali appunto per l'occasione. Però purtroppo ancora non siamo arrivati al punto di poter salvare la fumetteria. Quindi invito tutti gli appassionati, anche non, anche perché però hanno messo gli sconti, quindi saldi di Altro Quando, a andare in Corso Vittorio, vicino alla casa del Brodo, fra l'altro, un altro locale storico di Palermo. Via Vittorio Emanuele, allora. Via Vittorio Emanuele, in Corso Vittorio. Ah, allora ho capito qual è la fumetteria, bellissima. Sì, molto bella, su 2 piani, tra l'altro in tema di Gay Pride, da tantissimo tempo Altro Quando promuove e comunque le attività in favore dei diritti civili e gli omosessuali. Sì, infatti sono... Ah, infatti che? Sono molto suonava il clacson, lui parla da solo. C'è un po' di traffico in studio. Cioè lui parla e dice sì, infatti. No, sì. Infatti dicevo appunto che comunque sono molto attivi dal punto di vista dei diritti sessuali. Non passivi, quindi. Sono attivi. Beh, ragazzi, potremmo chiederlo direttamente ai gestori. Magari oggi gli va ad essere attivi. Guarda, se ci sta ascoltando Pablo Mannina, domani io lo so che tipo di asta ci sarà per Andrea. Non guarda che Paolo, come... vabbè, comunque. Salviamo Altro Quando, andate, ci spendete anche 1 o 2 euro, servia per una giusta causa, se no gli fumetti dove cazzo li compro. Esatto. A parte su eBay. È un consiglio interessato, ecco, sì. Non disinteressato. Va bene, allora siamo i saluti, ci ascoltiamo un altro pezzo oppure no, cazzeggiamo un altro po', perché insomma. Sì, c'è un altro pezzo. Se voi mettete una porcata come quella di prima, allora, giuro, senti, che il Gay Pride comincia da oggi. Più che altro, più che porcata, io ti direi di togliere l'ultima sillaba che è ta, se non la conosci, e allora avrei detto una cosa corretta. Se è passata una porca, io vi ringrazio passandoci 50 euro. Dico, l'hai visto che Katy Perry, se non ascolti Katy Perry? Katy Perry sarà anche una grandissima gnocca, però la musica che fa onestamente sembra una scorreggia uscita fuori dal buco. Oh, no! Basta! Sordo! Sta trascendendo! Vabbè, perché qui abbiamo un cultore della musica del rock anni 70 che ha avuto feedback, e quindi lui non concepisce questo programma, cioè, che va sul pop. Pop? Sì. Ma soprattutto sul pop, sulle pop di Katy Perry. Le pop di Katy Perry, ce n'è da discutere. Io farei una serata stasera solo musica pop. Parliamo di Katy Perry, Cristina Aguilera, tutte queste famose per il pop. E anche di Kitty. I Kitty. Kitty. Chi è Kitty? Kitty in culo. No, ma stiamo scadendo. Oh, guarda, ultimi minuti di questa trasmissione. Peggio di una mozzarella lasciata al sole. Cioè, per non so mese, con quali prospettive noi continueremo questa trasmissione nei prossimi mesi. Sì. E ricordiamolo, di nuovo per la terza volta, dal 5 luglio saremo on the beach. On the beach, che non vuol dire sulla prostituta, ma vuol dire sulla spiaggia. Ehi. Esatto, perché saremo appunto, trasmetteremo live al sunset. Ah, no, non è sulla prostituta. No, no, non è sulla prostituta. No, no, no. E ricordiamo anche un'altra cosa che no, che non c'entra niente col programma direttamente, ma dopodomani sera cosa? No, scusa, dopodomani pomeriggio alle ore 16 ci sarà appunto tutti quanti al Gay Pride a Palermo. È un cretino. No, no, è un cretino. Dopodomani alle 16 ci sarà la seconda partita dell'Italia e sarà Italia Nuova Zelanda. Vediamo se gli All Whites. Ora scusate, ma io devo fare un augurio, non so di voi, forse nessuno. Ti auguro di morire, Totò. Nessuno, tutti si rendono scientifico, però io sono alla ragioneria. Anche io, esatto. Tanti amici siamo della ragioneria. Allora, questa sera ci sarà la festa di commiato del preside Militello. Esatto, alla biblioteca liciniana alle 21, cioè dire, preside Militello, un'istituzione per questa città. Sì, sì, e quindi tanti auguri a Nino Militello, sì, che insomma ne abbiamo passate tante. No? Nino, sì, Militello Val di Catania, credo sia tutto il nome completo, è nato in provincia di Pippo Baldo. Assolutamente no. Comunque stasera alle ore 21.30 presso il chiostro delle Clarisse in via Garibaldi. Esatto, la biblioteca liciniana. Io non riesco a guardare Peano quando ride, non riesco, non ce la faccio. Cioè, dovete togliermelo di fronte la prossima volta, che veramente. Comunque, non sto dicendo che starà morendo ancora per Val di Catania, lui queste cose lo sconvolgono sempre. Gli arrivano dopo, ma le ha prese. No, per Val di Catania, per provincia di Pippo. La seconda parte. No, volevo dire che Sonia, la ragazza che prima ci ha descritto benissimo una ricetta, sì, marocchina. Sì, il suo status mentale. Ci informa che è assurdo scoprire che in Bulgaria, quindi siete che ci hanno anche ragazzi bulgari a tavola, cioè affermazione, si dice con il cenno della testa con cui noi diciamo no e viceversa. Ma dai! Ed è vero, cioè tu arrivi in Bulgaria e... Ma certo, è una grande stronzata. Cioè, questo, però. Ad Andrea, sei gay? E lui vuole dire di sì, però loro pensano. E tutti. Ah! Va bene, abbiamo terminato veramente. Aspetta, aspetta, perché la Volcan ne ha detta un'altra. Sentiamo questa di là, poi chiudiamo. La Volcan ne ha detto un'altra. Ha detto. No, no, ce lo diamo! Addio, addio! Ciao, ciao, ciao, ciao. Sei su Radio Centrale FM Italia. Per i tuoi eventi più importanti, scegli l'eleganza.